la musica la sento, la sento, la sento. Io la musica la sento, è qua dentro, è qua dentro. Io la musica la sento, la sento, la sento. Io la musica la sento, è qua dentro, è qua dentro. Se solo capiste che è tutto qua dentro. Se solo capiste che è tutto qua dentro. Se solo capiste che è tutto qua dentro. Se solo capiste che è tutto qua dentro. Sentite il dottor Clapis come ci dà dentro. Mangiare col telegiornale, sentirmi cantare a un evento, è tutto qua dentro, è tutto qua dentro. La scuola, la sorte, la vita, la morte, le regole del Parlamento, è tutto qua dentro, è tutto qua dentro. Io la musica la sento, la sento, la sento. Io la musica la sento, è qua dentro, è qua dentro. Il reddito anno, chissà il nuovo anno, se porterà cattivo vento, è tutto qua dentro, è tutto qua dentro. Vi cerco di dire una cosa importante, ma l'unico vostro quesito imminente, dottore, perché questo accento? È tutto qua dentro.